di valzer, guarda, non è che bisogna arrivare alla pensione. E abbiamo, diciamo, le doti e le qualità artistiche per poter. Questo lo dico quello io. Quello non lo so, però. Ed ogni giorno tutti al lavoro. Intanto ti dico che era una mazzurca e già questo dibattito lo abbiamo aperto anche un'altra volta. Chiusa parentesi, Nicoletta. Buongiorno alle splendide conduttrici, al professore e tutti coloro che ci ascoltano. Non dover più lavorare. Che mal di testa stamattina, altro che la mazzurca e il valzer. Ci vorrebbe, non lo so, una ci salsa. Ci vorrebbero qualcosa un po' ancora di mercati? Certo. Col giornale e cappuccino. Dottor Venanzi, ho sintetizzato come bene. Come spiega bene, insomma. Ecco, dottor Venanzi, ecco. Debora è chiarissima. Insomma. Ruberà il lavoro. Dal mattino fino alla sera, conti i giorni e poi si sa, anche il sabato arriverà. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È l'uomo per me, fatto apposta per me. È l'ultimo venerdì del mese, torna l'appuntamento con Salute Uomo. Il ministro Beatrice Lorenzin ha annunciato un piano nazionale per la fertilità con lo slogan "Difendi la tua fertilità, prepara una culla nel tuo futuro". Obiettivo: collocare la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del nostro paese. Occorrerà rimboccarsi le maniche e lavorare sull'informazione, sulla prevenzione, superare i tabù e i timori, educando proprio gli uomini, soprattutto i giovani, a, come si dice, diventare protagonisti attivi della loro salute. Perché? Perché molti dei problemi di fertilità derivano da stili di vita non adeguati, da diagnosi mancate o effettuate in ritardo. 800 24 0024 se volete saperne di più. Il nostro centralino è già a vostra disposizione. Informazione e prevenzione sono queste le due parole su cui costruiremo la puntata di oggi di Salute Uomo. Parleremo dei nemici della fertilità maschile, che non può prescindere dalla salute dell'apparato urogenitale. In linea con noi il professor Andrea Salogni, urologo, andrologo all'ospedale San Raffaele di Milano, che è in linea dagli studi di Roma. Andrea, ciao. Buongiorno a tutti, oggi sono in trasferta. Mm-hmm. Trovo che quanto la nostra ministra, il nostro ministro Beatrice Lorenzin ha appena promulgato sia di grandissima importanza. Solo per darvi un dato, su tutte le metropolitane milanesi ieri abbiamo trovato un piccolo opuscolo, sai, quelle riviste, quei giornalini, quei newspaper che vengono lasciati gratuitamente. Campeggiava ovunque: una coppia su cinque in Italia ha problemi di infertilità. A me sembra un dato devastante, che ci deve mettere davanti al fatto compiuto che comunicare, e tu lo fai molto bene, Nicoletta, sia davvero importante anche in questo campo. Allora chiediamo subito ai nostri ascoltatori di intervenire. 800 24 0024, un numero che è valido anche per affrontare il secondo tema della trasmissione di oggi. Per la pagina di denari parliamo di telefonia mobile. Stanno facendo discutere nell'ultimo periodo alcune pratiche messe in atto da compagnie che hanno reso a pagamento una serie di servizi in precedenza gratuiti. Il problema è che non sempre i loro clienti se ne sono resi conto e quindi hanno continuato ad usarli senza sapere che questo avrebbe pesato sulla bolletta. Allora, se siete tra questi o temete che questo problema possa toccarvi da vicino, 800 24 0024. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Allora, si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. Ne abbiamo parlato tante volte a Cuore Denari, affrontando il tema da varie angolature. I motivi sono tanti, diversi: la crisi economica, la mancanza di lavoro e quindi l'incertezza del futuro. Ma accanto a problemi strutturali che spingono la coppia a diventare genitore sempre più in là negli anni, ci sono anche dei problemi fisici, perché qualcosa è cambiato nell'uomo e anche nella donna, naturalmente, ma noi oggi ci occupiamo dell'universo maschile. Ad esempio, negli ultimi 50 anni la quantità di spermatozoi si è dimezzata, ma a rendere infertile una coppia su cinque, come ricordava Andrea Salogna, contribuiscono anche altri fattori: stile di vita, malattie sessualmente trasmesse, diagnosi tardive. Andrea, Ieri il ministro Beatrice Lorenzin, l'abbiamo anticipato, ci ha dato alla vigilia della nostra puntata un'occasione straordinaria, perché per parlare di fertilità si deve necessariamente parlare di salute sessuale, che, come tu hai sottolineato tante volte, è proprio una spia della salute generale. Sentiamo che cosa ha detto il ministro Lorenzin ai microfoni di Radio 24. Sentiamo negli ultimi 50 anni il numero di spermatozoi del maschio si è ridotto a metà, cioè il tema dell'infertilità ormai è un tema sanitario, è un tema sociale che va affrontato. Le motivazioni sono molteplici: stili di vita scorretti, e alcol, fumo, droga, cibo, cioè troppo o troppo poco, casi di anoressia o bulimia, malattie sessualmente trasmissibili, condizioni ambientali e il fatto di arrivare purtroppo dal medico quando è troppo tardi. Cioè in molti casi, soprattutto dell'uomo, si arriva al medico quando si sta provando ad avere un figlio e non ci si riesce, e si scopre che ci sono delle patologie che vengono casomai dall'età puberale, da quando si era ragazzi. Quindi bisogna, diciamo, riagganciare un sistema di prevenzione sulla fertilità e di educazione anche a che cos'è la fertilità, qual è il nostro range di fertilità di ognuno di noi, perché sembra che noi abbiamo tutta una serie di dati, di fatti e di statistiche in cui purtroppo la maggior parte della popolazione ha informazioni distorte. Quindi bisogna cominciare a informare e poi a educare alla prevenzione. Informare ed educare alla prevenzione, Andrea. È verissimo, è veramente vero, se si può dire così. Quello che ha detto il ministro è sacrosanto. Oggi, se pensiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e praticamente tutte le società scientifiche che si occupano di medicina della riproduzione considerano l'infertilità una malattia alla stessa stregua delle patologie cardiovascolari, piuttosto che del diabete, piuttosto che delle problematiche dell'occhio. Siamo soliti, e il concetto di prevenzione cade, si sposa perfettamente questo concetto, siamo soliti portare i nostri ragazzi, piuttosto che andare noi stessi dall'oculista, dal dentista, dal cardiologo per un problema. Se dovessi oggi dire quante persone vengono dall'andrologo o da chi si occupa di medicina della riproduzione per prevenire un problema o per mettere nero su bianco quale sia il loro stesso problema in essere, viene da ridere, perché la percentuale è veramente risibile. Questo è un problema piuttosto importante, perché la prevenzione parte già dall'epoca che, voglio dire, essere perinatale. Il primo degli elementi di prevenzione è quello che fa il pediatra nel momento in cui palpa i testicoli di un bambino, e qualora non li trovasse deve indicare una patologia frequente, sebbene non frequentissima, che si chiama criptorchidismo, una ritenzione dei testicoli all'interno del canale inguinale o dell'addome, che è già problematica. Perché? Perché ridurrà la probabilità di avere bambini in futuro, perché è più frequentemente associata a traumi a livello inguinale e perché, è brutto dirlo, ma si associa molto più spesso a tumori testicolari. Passiamo un momento oltre, nell'epoca adolescenziale o a cavallo tra l'epoca pediatrica e l'epoca adolescenziale. I problemi di fimosi, cioè di retrazione della cute, del prepuzio, che non è corretta, espongono a problematiche rilevanti per la qualità di vita sessuale, per la salute sessuale e per le infezioni successive a livello del glande, cioè di quella parte alla fine del pene, che diventano importantissime anche, ancora una volta di più, in termini di prevenzione, per evitare ad esempio lo sviluppo successivo di tumori del pene stesso. E poi andiamo a valutare in epoca veramente adolescenziale, prodromica al fatto di poter poi diventare papà in un'epoca un pochino più adulta. Il varicocele, se ne parla tantissimo ma mai a sufficienza. Ricordiamo che ne abbiamo parlato anche sulla pagina di Salute Uomo, ma naturalmente, esatto, torneremo a farlo oggi. Andrea, vorrei invitare i nostri ascoltatori, dato che la puntata di oggi è piuttosto ampia, toccherà tanti temi, vorrei fare, sì, una sorta di sommario ma anche una convocazione. Quindi 800 24 00 24, se state cercando un bambino e non arriva, chiamateci, ma chiamateci anche se avvertite dolore, peso, gonfiore a livello genitale, se notate delle macchie, delle aree biancastre, delle vescicole, delle papule, ma anche se avete la sensazione che la vostra attività sessuale non sia più valida e soddisfacente. mente. Andrea, dobbiamo aggiungere alcune altre indicazioni prima di affrontare il tema varicocele, che come tu hai anticipato In realtà, Nicoletta, hai ben detto, hai ben sottolineato quelli che sono gli aspetti, se vogliamo, più semplici, che chiunque, qualunque uomo, qualunque ragazzo o qualunque mamma e papà di un ragazzo possono ben identificare. È molto facile pensare ad un gonfiore, un dolore a livello dei genitali, a livello del pene, dei testicoli. Questi sono elementi spesso purtroppo non ben identificati, talvolta trascurati. Non vergogniamocene, non è mai una colpa avere un problema, soprattutto a livello dei genitali, ma siamo sempre maschietti e abbiamo un po' più di reticenza nel dirlo. Invece è importante, perché prevenire qui più che in altri campi è quasi meglio che curare. Quindi 800 24 00 24, è rivolto naturalmente ai nostri ascoltatori, ma anche ai genitori di ragazzi, di bambini, ma anche di ragazzi in età puberale, adolescenziale, certo. Ma chiediamo anche la collaborazione delle compagne, delle mogli. Spesso sono proprio le donne, no, che spingono l'uomo, che per timore, per paura, non si sottopone volentieri a dei controlli, invece a consultare il medico. Quindi questo è il primo passo. Andrea, a proposito del varicocele? A proposito del varicocele, è una delle cause di infertilità, giusto? È una delle cause importanti di infertilità. Se pensiamo che per grandi numeri nella popolazione maschile generale più di un uomo su 10 ha un varicocele, se traduciamo questo dato nella popolazione, cioè nel gruppo di uomini che non riescono ad avere bambini, che hanno problemi di fertilità, questo si quadruplica, 4 uomini su 10, che diventa un valore enorme. È che cosa il varicocele? Una dilatazione delle vene sopra il testicolo di sinistra, usualmente di sinistra per motivi anatomici, che banalmente si dice possa aumentare la temperatura del testicolo stesso, che è al di fuori del nostro corpo, per avere una temperatura di circa un grado in meno rispetto ai 37 gradi corporei, e questo incremento della temperatura, insieme ad un certo numero di altri danni possibili, può alterare la qualità nella produzione degli spermatozoi. Ora, il testicolo di sinistra è sempre quello più interessato, perché l'anatomia ci ha messo nella condizione di avere una predisposizione al danno vascolare da quel lato. A destra non è di minore importanza, l'abbiamo detto in precedenza, l'abbiamo scritto sul nostro sito, l'abbiamo detto a più volte. A destra la comparsa di un varicocele isolato deve sempre metterci un punto interrogativo, deve sempre accenderci un campanello d'allarme. Andate dal vostro specialista, perché è bene che venga fatta almeno un'ecografia dell'addome, e questo ci permetterà di escludere problematiche anche più serie. Andrea, ma se il varicocele è una delle cause di infertilità, in che misura l'intervento può risolvere il problema? Penso non solo ai ragazzini, ma anche ai giovani adulti. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Nei ragazzini, peraltro, almeno in Italia, esiste una certa quagliatriba nel dire correggo il varicocele senza avere un dato relativo allo spermiogramma, perché c'è sempre una certa quadritrosia nel dire di fare una raccolta masturbatoria, per forza di cose, del liquido seminale, sul quale fare poi un esame corretto in un soggetto minorenne. In quel caso gli urologi pediatri ben ci insegnano che è adeguato lo studio del volume del testicolo, cioè delle dimensioni del testicolo. In quel caso è importante che laddove ci fosse una riduzione volumetrica, o al fine preventivamente di evitare che un testicolo si riduca di dimensione, è bene correggerlo. Nella persona un po' più adulta, Nicoletta, è sempre importante correggerlo laddove esistano motivazioni specifiche per farlo, ad esempio l'infertilità. Abbiamo Raimondo che ci chiama da Napoli. Buongiorno Raimondo, benvenuto. Buongiorno signora, grazie, buona giornata. Io anche vorrei portare la mia grazie. Io vorrei portare la mia esperienza. Sì. Io ho 45 anni e sin da quando sono da bambino ho sempre avuto problemi di dolore, bruciore all'altezza del varicocele. Sono andato da tantissimi urologi, ho chiamato diversi medici, e tutto è stato un problema sempre sottovalutato. Adesso io ho 45 anni, ho questo problema che mi perseguita da quando sono ragazzo. Sì. Come il dottore, volevo chiedere un pochettino al professore cosa mi consigliava. Lei tocca cosa si potrebbe fare. Signor Raimondo, lei tocca un tasto veramente doloroso. Doloroso a tutto tondo, possiamo dire. Perché molto spesso quelle che si chiamano, è brutto il termine, scrotalgie, che vuol dire dolori dello scroto, che è quella sacca che contiene il testicolo stesso, non sono da scrivere, non sono da attribuire a un varicocele. Purtroppo sappiamo che la correzione chirurgica di un varicocele fatta esclusivamente per correggere un dolore non sortisce il risultato che avremmo desiderato. Perché? Perché le motivazioni per un dolore al di sopra del testicolo sono spesso le più varie e non facilmente identificabili. Si possono fare degli studi con il neurologo che va a identificare la presenza, ad esempio, di terminazioni nervose infiammate. Talvolta si ha un problema di infiammazione dell'epididimo, che è quella ghiandola sopra il testicolo. Talvolta ci sono delle punte d'ernia, talaltra ci sono addirittura dei piccoli calcoli lungo l'ultima porzione dell'uretere, che è quel tubicino che porta le urine dal rene fino alla vescica. Talaltra, spesso purtroppo, signor Raimondo, non si individua una causa. Talvolta viene misconosciuta un'infezione delle vie urinarie o dei genitali, che deve essere ben studiata facendo degli esami culturali dello sperma o delle urine. Ma le ripeto ancora una volta, purtroppo talvolta non viene identificata, non è che non venga studiata, non viene identificata. Allora bisogna a quel punto dedicare la propria attenzione ad una valida terapia per il dolore. Talvolta non si trova la causa e allora curerò l'effetto, che è fondamentalmente il dolore stesso. Andrea, allora, andrologo, urologo, due specialisti, e spesso le persone fanno confusione, anche magari Raimondo in questo caso, quale delle due figure avrebbe dovuto consultare? Perché lo specialista di riferimento della salute della donna, della salute è genitale, il ginecologo. Ma il corrispettivo del ginecologo al maschile è l'andrologo oppure l'urologo? Si può scegliere entrambe? Tu sei urologo, andrologo, noi prendiamo... No? Siamo a posto, ma Allora, in realtà le due figure sono sostanzialmente differenti, ma allo stesso tempo la stessa. Perché? Perché l'urologo di per sé è un medico specialista in urologia, quindi con un'estrazione di tipo chirurgico, e può fare l'andrologo perché ne ha le competenze. L'andrologo però può essere anche un endocrinologo, cioè un medico che non abbia expertise o non si è mai dedicato alla chirurgia, ma ha al contrario competenze andrologiche. Quindi come cado bene, dai Andrea. Come cadi benissimo. Va bene, perché okay. Raimondo vada dalla persona che si chiama andrologo, urologo, endocrinologo, che si occupi di genitali. Allora, Leo di Ancona ci scrive al 349-238-6666. Vi devo dire che arrivano tantissimi messaggi. Potete anche chiamarci, come ha fatto Giampiero da Roma e Vittorio da Treviso, perché ecco, già parlare di questa cosa, perché non bisogna vergognarsi, non bisogna. Insomma, in queste cose gli uomini dovrebbero imparare dalle donne. Ma noi siamo qua con il professor Andrea Salone per dare tutte le indicazioni. Leo da Ancona sottolinea una cosa giusta: il varicocele al tempo del militare veniva riscontrato alla visita medica, ma il medico curante non può diagnosticarlo dal momento che sarei in grado anch'io a farlo, che sono un semplice magazziniere. Leo ha ragione perché io non ho fatto il militare perché mi hanno riformato, ma ho fatto la visita dei 3 giorni, i famosi 3 giorni, erano gli anni 80, e in quei 3 giorni ero stato visitato e mi avevano diagnosticato un varicocele. Però Leo ha ragione, il medico di medicina generale... E tu hai deciso di fare l'andrologo? Io ho deciso di fare l'andrologo successivamente, non per quello, ma per un caro amico, figurati, che durante i miei anni di università era stato ammalato per un tumore testicolare. Da lì ho deciso di fare questa professione che adoro tutt'oggi. Però il nostro ascoltatore ha sicuramente ragione, il medico di medicina generale, il nostro medico di famiglia di per sé può fare tranquillamente la diagnosi di varicocele, almeno clinica, che vuol dire visito il nostro uomo e faccio delle piccole manovre che mi permettano di identificare il varicocele. Poi la conferma diagnostica verrà con un'ecografia, un ecocolor Doppler ben fatto da chi è di competenza, ma certamente Leo ha ragione. 800 24 00 24, subito dopo i mercati daremo la parola naturalmente a Vittorio che ci chiama da Treviso e poi a Giampiero da Roma. I nostri centralini sono a vostra disposizione, ma adesso è tempo di andare a sentire che cosa sta succedendo sui mercati. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta... cuore e denari. Beh, sembra che ci siamo. Voi sapete com'è là fuori? È come ci hanno detto al corso, è un ovulo. Ho paura, non voglio uscire. Ma se è per questo che siamo stati addestrati. Sì, ma chissà che cosa troveremo là fuori. Hai visto i plastici al corso, no? Sì, ma si sentono strane cose, sapete? Come queste pillole che prendono le donne o che i nostri interi contingenti si schiacciano con la testa contro un muro di gomma. Ah, sciocchezze. Senti, non è questo il momento per avere dubbi. Ricorda che cosa c'era scritto sul muro della caserma al corso. O si feconda o si muore, a noi. No, ho paura, non voglio andare. Fantastico, lo spermatozoo timoroso, pauroso. In linea con noi c'è sempre il professor Andrea Salonia, siete a Salute Uomo. Andrea, abbiamo detto che bentornati, ben ritrovati. Andrea Salonia dagli studi di Roma. Parliamo un attimo di questi spermatozoi. In 50 anni il loro numero si è dimezzato, ma è un problema solo di quantità, di qualità o anche di vivacità? Beh, due dati, Nicoletta, scusami. Il primo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in funzione di quello che avevi appena detto e che appunto ha riferito prima il ministro, ha cambiato i parametri di normalità dei propri indici. Un tempo si diceva ci vogliono X spermatozoi per definire lo sperma normale, oggi ce ne vogliono X meno tanti milioni, proprio per questo motivo. Ed è certamente un motivo problematico quello che ci porta ad essere più infertili, ed è legato a meno spermatozoi che si muovono meno, sono di forma alterata. Oggi sappiamo che non è solo questo, è anche il tipo di informazioni che portano gli spermatozoi ad essere problematico, e per questo la scienza negli ultimi 20 anni ha fatto grandi progressi. Ma Andrea, c'è modo in qualche di fare prevenzione, quindi di conservare gli spermatozoi? Assolutamente sì. Vivaci, sani, nel numero giusto, che portano con le informazioni giuste, diamo qualche regola. No, non c'è una ricetta magica, ma ci sono regole di buon senso che fanno parte di quella che si chiama prevenzione andrologica. In assoluto, fare, o meglio, seguire delle regole di vita, uno stile di vita rigoroso nel senso di salutistico, è certamente importante. Il fumo, l'ha ricordato il ministro, ma noi l'abbiamo già parlato a lungo, sostanzialmente è uno dei nemici principali della fertilità, perché danneggia per quantità e per capacità di muoversi gli spermatozoi. Un'alimentazione sbagliata che porti ad un eccesso di peso è un altro elemento importante. L'eccesso di peso non solo per abuso di cibo, ma per tutto ciò che si viene a creare nel metabolismo del corpo, che si riverbera in modo estremamente negativo sulla qualità degli spermatozoi. L'eccesso di alcol, l'eccesso di stupefacenti o gli stupefacenti in genere. Una cosa che poco si dice, purtroppo, gli anabolizzanti, che sono quelle sostanze che si usano spesso, purtroppo, per aumentare le dimensioni dei nostri muscoli. In palestra spesso si sente di questo. Gli anabolizzanti sono devastanti. E poi la prevenzione passa dal appunto la cura di quello che abbiamo detto essere il criptorchidismo, ci scrive Vittorio da Treviso, lo leggo qui, proprio in questo senso, il varicocele, l'abbiamo detto prima, e poi un'attività fisica regolare, prevalentemente aerobica, ma senza eccedere. Queste sono regole di buon senso, ma estremamente importanti. Allora andiamo da Vittorio da Treviso, che ci aspetta, e poi a Giampiero da Roma, Pietro da Vicenza. Vittorio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, grazie per il garbo e la competenza con cui affrontate in generale tutti questi problemi medico-sanità. Grazie Vittorio. Io chiamo per mio figlio ha 16 anni adesso, a 9 anni è stato operato di criptorchidismo destro, operazione riuscita perfettamente, è cresciuto, nel cambio dal pediatra al medico di base, il medico di base consigliava uno spermiogramma che è stato fatto e purtroppo ha riscontrato una zoospermia totale. Nella produzione degli spermatozoi. Ecco, successivamente abbiamo fatto un'ecografia sul consiglio che ha rilevato nel testicolo sano, diciamo, una dimensione leggermente diversa rispetto al testicolo operato, diciamo così, e un varicocele importante di quarto grado. La telefonata era più che altro per capire i passi successivi. Noi abbiamo immediatamente preso contatto con un urologo. Certo, Vittorio, io direi così, lei ci scrive e magari il professor Salogni, Andrea, le risponde per dare delle indicazioni precise, ma Andrea, il caso di Vittorio ti dà lo spunto per così prendere, no, dare delle informazioni, perché non è così raro quello che è capitato al figlio del nostro amico Vittorio. No, il figlio di Vittorio ha avuto un problema che in realtà è sostanzialmente un'anomalia nella discesa del testicolo da quando nasciamo, meglio, da quando veniamo generati, siamo ancora embrioni, verso appunto lo scroto, in modo tale da poter stare al di fuori del nostro corpo, come dicevo prima, per avere una temperatura un pochino inferiore. L'aspetto importante è che purtroppo l'età è elemento dirimente tra chi non avrà problemi e chi ne avrà e più o meno seri. 9 anni sono ad oggi considerati un po' troppo. Si per operare il cricorchidismo, nel senso che si cerca di riportare il testicolo all'interno dello scroto addirittura entro il primo anno. Questo per tutelare la qualità di quella componente che si chiama spermatogenetica, cioè la capacità del testicolo di produrre spermatozoi. Solo perché a tutti sia chiaro quello che Vittorio ha detto del suo figliolo, azoospermia significa la mancanza di spermatozoi nel liquido seminale. Se posso dare un consiglio veloce, certo. Vittorio, è bene che suo figlio venga visto da un bravo andrologo che si occupi di riproduzione, e devo dire che in Veneto ne avete di bravissimi. Bene, andiamo da Giampiero che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno e complimenti. Grazie anche a lei che ci segue e che interviene. Bravo. Grazie. Volevo chiedere al professore, premetto che ho subito un intervento di mi è stato tolto un lipoma nel lato inguinale destro. Sì. Successivamente a questo intervento ho notato che dopo l'eiaculazione, diciamo così, il testicolo destro rimane un po' indolentito e poi anche la dimensione, diciamo, è diversa. Ecco, provo la sensazione come se non si svuotasse. Volevo sapere se la causa poteva essere proprio l'intervento che ha eseguito, cui è stato sottoposto un lipoma all'inguine. Possiamo dire a Giampiero, Nicoletta, che è difficile dare un giudizio, certo, non avendolo visitato, però è certo vero che tutte le problematiche a livello genitale, soprattutto inerenti all'eiaculazione, sono di difficile discriminazione. L'elemento più importante in questo caso è escludere che ci sia in qualche modo una fibrosi, cioè un irrigidimento o un'ostruzione di quello che si chiama dotto deferente che porta il liquido seminale verso l'esterno, cosa che potrebbe non esserci. È molto facile invece che interventi a livello dell'area inguinogenitale si possano associare a micro alterazioni, cioè piccole alterazioni della vascolarizzazione testicolare e a riduzione del volume del testicolo, questo sì, ma sono certo che un bravo urologo anche nella sua area potrà aiutarlo a ridurre questa sensazione di disagio. Torno, perché i messaggi mi invitano a farlo, dei nostri ascoltatori, un attimo sul varicocele. Sì. Un ascoltatore, Franco, ci scrive che è stato operato quando aveva 13 anni, dopo 2 o 3 anni è ritornato, sempre alla parte sinistra, non si è più operato, ma gli dà fastidio. Cosa può fare? Rioperare? Ma ci scrive che ha 55 anni e ha una figlia. L'osservazione è corretta in questo caso, uno dei pochi probabilmente in cui il varicocele è sintomatico. I sintomi caratteristici del varicocele sono una sensazione di pesantezza a livello scrotale, come se qualcuno mi ci si aggrappasse o ci si sedesse sopra. Questo è l'esempio che io faccio sempre agli uomini che vengono in ambulatorio. In questo caso vale la pena fondamentalmente di farsi operare per una sensazione dolorosa. Normalmente il varicocele viene operato invece ai fini di prevenzione o promozione di un miglioramento dello spermiogramma. Allora, adesso tra poco andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Continueremo anche dopo le informazioni sul traffico, quindi 800 24 00 24, mentre a partire dalle ore 12 affronteremo il tema dei denari, che oggi è dedicato alla telefonia mobile. Il nostro numero verde è vostra disposizione, diteci se state cercando un bambino e non arriva, diteci anche se avvertite dolore, peso, gonfiore a livello genitale, macchie, aree biancastre, vascicole, papule, ma anche se notate che la vostra attività sessuale non è più quella di una volta, non è più valida, non è più soddisfacente. Spesso si dà colpa allo stress, ma non è sempre solo colpa di stress. Ne parliamo tra poco. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Cuore e denari. Io sono nato a Milano, sono nato in città, ho le radici nell'asfalto e non le rinnego. Mi piace tutto della città. La confusione, il rumore, l'inquinamento, ma sì, anche le polveri sottili. E invece non sopporto chi dice, ah, basta con la città, ma vuoi mettere la vita in campagna? No che non la voglio mettere. Finalmente arrivi in questa landa desolata e lo trovi lì, affannato, indaffarato, però è felice, eh? Ti dice, ah, guarda come mi rilasso io qui. Mi faccio l'orto, mi faccio il pane, mi faccio l'olio, mi faccio la legna. No, secondo me ti fai un mazzo così. A me la spesa me la consegnano a casa. Ho il riscaldamento centralizzato, secondo me mi rilasso più io. Stress, prendiamo spunto da questo pezzo di Joelle Dix per parlare dello stress cronico, che lo sappiamo può compromettere la salute psicofisica, così come la sessualità, che ne rappresenta uno dei principali indicatori. Ma è importante anche considerare che non sempre le defiance sotto le lenzuola dipendono dallo stress, ma alla base potrebbero esserci invece problemi ormonali, vascolari, psicologici legati alla partner, che potrebbero essere comunque prevenuti e curati se solo si arrivasse all'attenzione medica nei tempi utili. Andrea, la disfunzione erettile è verissimo. Viene sempre considerata, e spesso che è considerata come un problema di stress. Sappiamo che è una delle cause di uno dei problemi dei rapporti di coppia, ma vogliamo spendere anche dedicheremo naturalmente magari una puntata di Salute Uomo alla disfunzione erettile, ma vogliamo lanciare un avvertimento, perché può essere un segnale precoce di malattia di tutto il distretto cardio-cerebrovascolare. È assolutamente vero, Nicoletta. La prima cosa che mi permetto di dire è: non abbiamo e non dobbiamo avere vergogna di parlarne. Lo stress passa anche da questo aspetto. In secondo luogo, molto spesso, torniamo a quanto il ministro Lorenzin ci ha appena detto oggi, le coppie che non riescono ad avere figlioli hanno anche dei problemi legati alla sessualità. Talvolta il problema nel non avere figlioli dipende da un problema della sessualità. La disfunzione erettile nel primo, si parla spesso di disagio psicologico meno, ma molto spesso, come tu ben dicevi, ha tutt'altra origine. Nelle coppie infertili spesso i problemi ormonali combinano problemi di erezione e problemi nell'avere figlioli, appunto. Perché la disfunzione erettile è importante? Perché spesso è una sorta di campanello d'allarme che anticipa e di molto problemi vascolari più seri a livello ad esempio coronarico, a livello del cuore. Gli ultimi 10 anni ci hanno insegnato come la comparsa di disfunzione erettile possa essere proprio un campanello d'allarme in questo senso. Quindi, laddove comparissero delle difficoltà di erezione, non sminuiamole, andiamo dall'urologo, dall'andrologo, dal medico di medicina generale e riferiamole, perché possono essere proprio preventive rispetto a un danno a livello del cuore. Andrea, io ricordo che tu mi hai detto, ne abbiamo parlato anche sulla pagina di Salute Uomo, che la disfunzione erettile potrebbe anche essere la spia di un calo dei livelli di testosterone, che fisiologicamente dopo i 40 anni diminuisce. Sì. Ma ci sono altri sintomi che indicano un basso livello di questo ormone, che tutti i maschi desiderano invece tenere a ottimi livelli. No? Perché si associa la prestanza a questo ormone. Certo, è verissimo. Se solo dovessimo limitarci a ricordare quelli che sono i sintomi nella sfera della sessualità, il fatto di alzarsi la mattina in assenza di erezioni, di non avere più desiderio, cioè di non avere più immagini, pensieri legati alla sessualità, è già di per sé motivo sufficiente per mettere ancora una volta un punto di domanda davanti al nostro stato di salute e andare dalla persona che se ne deve occupare. E a questo aggiungiamo i problemi di erezione erezione. Questi tre, mancanza di erezione al mattino, problematiche di erezione e mancanza di pensieri, desideri o immagini legate alla sessualità, sono motivi di tipo clinico sufficienti per fare un prelievo di testosterone e semplicemente un prelievo del sangue e andare poi dall'andrologo, dall'urologo e chiedere come mi può aiutare a risolvere questo problema. Quali sono i livelli del il valore del, di testosterone che sarebbe auspicabile trovare sull'esame del sangue? Ecco, qui fai una domanda che metterebbe in crisi tre quarti delle società scientifiche. Oggi si identifica un valore di 3 nanogrammi. Però tu sei Andrea Salonia, le sai. No, perché si è molto discusso di questo, in questo senso, quindi apriamo diatribe. 3 nanogrammi millilitro, che vuol dire una quota sufficiente perché tutti i tessuti vengano ad essere adeguatamente riforniti di testosterone, dal cervello fino alla punta dei piedi. Andiamo a Pietro da Vicenza, se avete preso nota, e poi Raffaele dalla provincia di Palermo. Pietro, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie Pietro. Volevo un attimo riassumere la mia situazione. Allora, io ho 39 anni, mia moglie 30. Avevamo iniziato da circa un anno fa per avere un figlio, solo che non ci riuscivamo. Così a dicembre mi sono sottoposto alla spermiocultura e allo spermiogramma, e è stato un risultato devastante perché praticamente mi avevano dato dell'infertile, iperviscosità e di tutto e di più. Così ho fatto in un ospedale civile, sono andato presso una clinica privata, ho ripetuto gli esami, i valori erano migliori, però sono stati riscontrati dei problemi, ossia il virus del papilloma virus. E poi due antibatteri, antisperma. Così ho iniziato una cura, mi sono rivolto a un andrologo di Padova, che praticamente ha cominciato a darmi dei farmaci per questo papilloma virus e per questi due antibatteri. La cura per il papilloma virus la sto ancora portando avanti, è un farmaco, mi sembra si chiama 2L-Papi. Mentre gli antibatteri con il ciproxin e il Bassado sono stati sconfitti, però sono subentrati due virus. Pietro, allora il suo finale, diciamo. Sì, Pietro, allora se vuole può scriverci e mandare una mail e noi giriamo la mail ad Andrea Salonia, ma Pietro, Andrea ci dà un'indicazione, uno spunto per parlare anche del papillomavirus, se ne parla sempre al femminile, ma sì, il papillomavirus può interessare anche gli uomini, tra l'altro. Certo. Allora, ci sono due elementi Abbiamo un minuto. Abbiamo un minuto. Allora, due elementi importanti. Primo, Pietro ha centrato il problema delle infezioni, causa spesso di infertilità maschile. Le infezioni sono generiche, derivano prevalentemente da quelli che si chiamano enterobatteriacee dall'intestino, ma più spesso nelle coppie infertili da germi che devono essere ricercati. Faceva cenno al Bassado, quello è un antibiotico che si usa solo in alcune particolare infezione a trasmissione sessuale. Per quanto riguarda il papillomavirus, è un virus che abbiamo sempre ascritto solo alle femminucce. In realtà i condilomi, che sono quelle specie di formazioni che si possono sviluppare sul pene oltre che nella vagina, sono tipicamente maschili. Il papillomavirus è a trasmissione sessuale, ne esistono almeno 120 ceppi diversi, ma 30 sono a trasmissione sessuale e sono parimenti importanti nell'uomo e nella donna. Prevenirne la presenza vuol dire utilizzare, laddove non si stia cercando un figliolo, dei mezzi di barriera, tipo il profilattico, che non ci difenderà a tutto tondo, ma che certamente ci aiuterà a difenderci dalla trasmissione sessuale dell'infezione stessa. Ancora una volta, prevenire vuol dire andare dalle persone giuste e farsi visitare. La domanda di Raffaele, che ci chiama dalla provincia di Palermo, te la faccio io. Figli operati entrambi per i testicoli retratti, da adulti avranno problemi di fertilità? Dipende un po' dall'età? Secondi per una risposta, sì. Certamente sì. Ancora, i testicoli retratti sono il famoso criptorchidismo di cui abbiamo parlato prima. È possibile che i figli di Raffaele abbiano problemi di infertilità, ma è certo vero che uno spermiogramma fatto in tempo utile e una buona valutazione potrà dare a questi ragazzi delle indicazioni precise su come muoversi. Allora Andrea, vorrei ricordare che sulla pagina di Salute Uomo, oltre ai video, le news, trovate degli l'editoriale, trovate degli approfondimenti che Andrea Salogni ha scritto per noi, con tutte le informazioni utili per fare una prevenzione e soprattutto per avere informazioni adeguate. Grazie ad Andrea Salogna, che torna a trovarci l'ultimo venerdì di giugno, giusto? Grazie a voi, esatto. Nel frattempo, esatto, continuate a visitare la pagina di Salute Uomo. E adesso, grazie ad Andrea, noi andiamo a sentire il nostro GR e poi telefonia mobile, qualcosa non ci torna. Cuore e denari. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Non occupateci il telefono e non aumentateci la bolletta, o almeno, almeno avvisateci prima di farlo. Sono i clienti delle principali compagnie di telefonia mobile a chiederlo. Ne parliamo in questa seconda parte di Cuore Denari. Per essere precisi, non è dell'aumento della bolletta che parliamo, ma dell'aumento del costo di alcuni servizi e in molti casi del fatto che questi servizi, in origine gratuiti, siano diventati in molti casi a pagamento. Le persone hanno così continuato a utilizzare queste funzioni senza sapere che le stavano pagando. Dov'è la chiave di tutta questa questione? Nel modo in cui il cliente, e quindi noi, viene avvisato dalla compagnia di questi cambiamenti. Ce lo spiegherà per bene la nostra ospite, che è in linea con noi. Buongiorno all'avvocato Valeria Graziussi, che è responsabile del Dipartimento Antitrust per il Codacons. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito in trasmissione. Allora, 800 24 00 24, il nostro numero verde non pesa sulla vostra bolletta, quindi raccontateci se vi è capitato di scoprire che un servizio inizialmente gratuito nel vostro piano telefonico si era trasformato in un servizio a pagamento, oppure se il suo costo era aumentato e voi non ve ne eravate accorti. Ad esempio, la segreteria telefonica, i messaggini che ci avvisano quando qualcuno ci cerca mentre noi siamo occupati in altre faccende affaccendate, occupati in altre telefonate. Come vi siete comportati voi? Avete smesso di usarli? Non avevate pensato che la causa di un aumento della bolletta potesse essere questa? 349-238-6666, potete come sempre scriverci anche i messaggi, oppure andare sulla pagina di Cuore Denari sul sito di Radio 24 e potete seguirci sui nostri social. Avvocato, una pratica che è stata riscontrata in questi ultimi mesi è quella, là, insomma, in pratica le compagnie hanno avuto la tentazione di cambiare in corsa le tariffe, diciamola tutta, è così? Esattamente, alcune compagnie telefoniche in precedenza e da ultimo anche l'H3G a quanto pare ha deciso di far diventare alcuni servizi che prima erano totalmente gratuiti adesso a pagamento, come per esempio quello che da prima ha citato lei, ti ho cercato, lo chiama ora per SIM, il recall, a seconda appunto delle diverse compagnie telefoniche, ognuno ha un nome diverso, ma in sostanza è l'avviso che qualcuno cercato nel momento in cui si è impegnato in altra conversazione oppure quando il telefono cellulare è spento. E esattamente proprio questo è il fenomeno oggetto dell'attenzione delle autorità attualmente e che qualche mese fa è stato anche sanzionato per altre compagnie telefoniche che non sono state. Quindi non si dovrebbe, cioè la compagnia ha il diritto di modificare il prezzo di un servizio, però deve comunicarcelo, è questo il problema, no? Deve comunicarcelo e noi dobbiamo essere informati per bene, avere tutti gli strumenti per, no, poter esprimere un po' la nostra opinione, dire continuo oppure no. Esattamente, proprio questo è il punto. Le modalità di comunicazione, comunque di acquisizione del consenso da parte del gestore telefonico non sono così trasparenti, non sono così chiare, perché spesso il cliente viene avvisato semplicemente tramite un SMS che non è sufficiente, diciamo, ad acquisire l'effettivo consenso e consapevolezza del consumatore, il quale magari a volte anche per distrazione può non leggerlo oppure può cancellarlo, come per sbaglio. Con i telefoni. per sbaglio, esatto, per come avviene con il telefono tasto, no? Che uno può essere che volontariamente. Brava, ha toccato un tasto. Avvocato Graziussi, abbiamo i nostri ascoltatori che vogliono naturalmente intervenire al nostro numero verde 800 24 00 24. Abbiamo Armando che ci chiama da Palermo e poi Emilio dalla provincia di Milano. Armando, buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, è capitata una cosa del genere anche a me, che mi sono visto sottrarre 5 euro dal gestore Wind, perché io avrei fatto un abbonamento a un non meglio identificato servizio di news, siti erotici e cose del genere. Mm. Quando ho provato a chiamare il call center che c'era indicato, mi ha risposto una dall'estero. Quando ho chiesto chi era il titolare di questa azione, dice: guardi, noi siamo solo un call center, non possiamo dirle niente. Quando mi sono un po' incazzato, che ho insistito eccetera, mi ha sbattuto il telefono in faccia. Quindi questo succede perché in Italia sanno di potersi permettere questo e anche di più, perché nessuno controlla, il potere pensa solo al potere, non gliene strafrega nulla dei diritti dei cittadini. Vediamo. Ma Armando, poi la sua storia come è andata a finire, questi famosi 5 euro da cui poi è partita tutta... Non è successo una volta. Potevo solo fare la disdetta senza ricevere indietro i soldi. Non solo, nonostante io abbia fatto la disdetta, c'è stato un altro sito, che probabilmente è sempre lo stesso, che me ne ha fregati altri 5. Mamma mia, Armando, 5 oggi, 5 domani, in più la centralinista con cui lei litiga. Avvocato Graziussi, che cosa doveva fare Armando? Che cosa abbiamo sbagliato e come possiamo tutelarci? Allora, il mio consiglio in questo caso è sempre quello di mandare subito un reclamo, magari via fax, così è anche più veloce e si lascia anche traccia di quanto si reclama, relativamente appunto a quanto all'accaduto, e chiedere l'immediato rimborso del prezzo sottratto, del costo, diciamo, sottratto dal gestore illegittimamente. Quindi basta una lettera, una cosa tipo: in data odierna ho scoperto che, pertanto, avvocati per farla, no, una pagina, 4-5 righe, spieghiamo. L'utenza a cui si fa riferimento e l'intestatario della stessa. E io metterei anche per conoscenza l'autorità garante della concorrenza del mercato, che comunque ha l'occhio, diciamo, vigile su questi tipi di comportamenti e condotte dei gestori telefonici. Sì, meglio mettiamo in coppia. Ok, e dopodiché? E dopodiché il gestore ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni al reclamo, e chiaramente se la risposta o non arriva oppure è insoddisfacente, si può andare al Corecom regionale, che è il Comitato Regionale per le Comunicazioni, un organo di conciliazione totalmente gratuito per quanto riguarda gli utenti, il quale ricorre compilando un semplice modulino che si trova online, che si chiama Formulario UG. Metteremo naturalmente le indicazioni sulla nostra pagina, vero? Lo chiediamo a Marco Lombardo e Isotta Scenna. Sì, mi scusi, l'ho interrotta, quindi si va al Corecom. Ogni regione ha il proprio Corecom di riferimento, si inoltra copia del reclamo che si è inviata alla compagnia e eventuale risposta se si è ricevuta, oppure nessuna risposta nel caso appunto non si sia ricevuta, e dopo poco il Corecom stesso convoca il consumatore per un'udienza di conciliazione, dove molto spesso, per fortuna, questi comportamenti illegittimi vengono finalmente riconosciuti dal gestore e vengono di conseguenza stornati gli addebiti legittimi. Quindi meglio scripta manent, meglio avrebbe fatto il nostro ascoltatore di Palermo a mandare questo fax piuttosto che telefonare alla centralinista, giusto? Sì, è chiaro che il consumatore in prima battuta chiama il numero di riferimento, è anche comprensibile, però sicuramente più efficace poi per far rimanere agli atti quanto il reclamo effettuato, che magari telefonicamente non può essere, a meno che non lo si registra o quant'altro, non sparisce, tra virgolette. Però Carlo, è meglio, lei suggerisce il fax, ma Carlo non è tanto d'accordo, sa? Perché ci scrive: trovo assurdo che nell'era del digitale si possa disdire un contratto solo via fax, mentre le compagnie telefoniche possono accettare la sottoscrizione di un contratto tramite registrazione. Cosa ne pensate? Cosa ne pensa Avvocato Graziussi? Assolutamente, infatti anche su questo l'Agicom, che invece è l'autorità garante delle comunicazioni, sta regolando la materia, e dopo la riforma del codice del consumo dell'anno scorso, del 2014, quindi abbastanza recente, ha deciso che qualsiasi tipo di contratto telefonico deve essere poi seguito e comunque confermato in via cartacea, quindi il consenso del consumatore a qualsiasi tipo di offerta, di contratto, di qualsiasi tipo di cosa, deve sempre essere successivamente seguito dal comportamento attivo del consumatore che sottoscrive il contratto e lo rimanda alla compagnia telefonica o comunque qualsiasi altro soggetto che ha fatto una proposta contrattuale telefonica. Quindi al telefono si può diciamo soltanto ascoltare le offerte dei vari operatori, ma poi successivamente bisogna mandare il cartaceo, comunque un supporto durevole, così dice la legge. Un supporto durevole. Il caso del nostro ascoltatore di Palermo ha acceso il dibattito tra i nostri ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, poi naturalmente andremo anche ad Emilio della provincia di Milano, e molti dicono: ma sì, per 5 euro però la gente non si sbatte così tanto, paga e sta zitta, quindi 5 euro di qua, 5 euro di là, avvocato Graziussi, poi però la cifra aumenta. Assolutamente, infatti magari ecco nel momento in cui uno ha anche una cifra troppo consistente da contestare, a quel punto può fare anche una sola contestazione, un reclamo diciamo relativo a diversi episodi che riguardano queste sottrazioni e inviarlo direttamente. Però proprio perché comunque la pratica è considerata scorretta in questi casi, come dicevo prima, se la conoscenza dell'autorità di garanzia, cioè l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato, fa sì che quest'ultima possa indagare sulla condotta del gestore e finalmente sanzionarlo pesantemente in modo tale da farlo desistere successivamente. Che impari la lezione. Carlo ci scrive: prevenire quando si apre un nuovo contratto telefonico, dire subito che non si vogliono tutta una serie di servizi, tantomeno gli abbonamenti a pagamento su internet. Io lo faccio ogni volta che cambio gestore. Avvocato Graziussi, è una buona idea quella che ci ha dato Carlo? Assolutamente sì, soprattutto è un'idea ottima e da un suggerimento da seguire sicuramente. Purtroppo è soltanto il consumatore più avveduto, più attento, che riesce a capire che deve, appunto, non deve sottoscrivere determinate clausole, non deve accettare determinate dei servizi, chiaramente qualora non li volesse, ovviamente. Ma sicuramente è un comportamento da seguire, quindi assolutamente sì, ha ragione. Andiamo a Emilio che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Emilio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Vi ringrazio per la trasmissione perché la sento spessissimo. Bravo Emilio. Però a volte io chiedo che siate più incisivi. Bravo Emilio, ma lei chiami, che così noi col suo aiuto, ecco, andiamo meglio. Io vediamo la ringrazio. Vediamo a voi, sì, e a me e a tutti gli altri. Bravo. Io ho sentito fino adesso quello che è stato detto, ho sentito l'avvocato, ma l'avvocato mi sembra che stia in un pianeta diverso dal nostro, cioè sì. Il telefono io lo uso per lavoro e quindi non posso permettere di avere un disservizio. Allora a questo punto, siccome devo firmare dei contratti che hanno dei vincoli per cui io con Wind mi trovo a dover aspettare 4 giorni prima di un intervento, e non è accettabile, no. Io sollecito, ho fatto 20-30 solleciti, mi segno l'ora, la data, l'operatore e il numero di ticket di intervento, ma questi mi danno delle risposte generiche perché non, la loro procedura prevede questo. Ho mandato anche un'email certificata all'azienda, dalla mia email certificata, e la risposta dopo qualche giorno è stata: chiami il 155, cioè ci prendono in giro. Quindi non è semplice cambiare gestore se uno lo usa per lavoro, sì, perché usa internet, tutto, quindi è un ricatto. Sanno che di fatto non è possibile. Sono anch'io dell'idea che appena non funziona la cosa, alla prima che mi fai cambio gestore, ma non è così immediato e facile. Quindi ho parlato anche con l'altro consumo, mi hanno dato un'informazione che il garante vuole tutti questi tempi e il mio servizio è a singhiozzo, sì, un giorno va, 2 giorni non va. Cosa faccio Emilio? Allora, io non so se l'avvocato, io non saprei darle un'indicazione, ma vediamo se l'avvocato Graziussi o i nostri ascoltatori, sì, possono suggerire, soprattutto per evitare di stare in superficie, come ci diceva Emilio. Diamo delle cose concrete. Avvocato, tocca a lei, io non saprei che cosa dire al nostro amico. Allora, per quanto riguarda l'interruzione dei servizi improvvisi, per esempio delle linee telefoniche, eccetera, quant'altro, c'è un altro strumento sempre da attivare per quanto riguarda come organo competente, è sempre il CoreCom regionale, e questo strumento è il DU14, cioè un provvedimento. No, mi scusi, andate un attimo via la linea, io non ho capito, me lo ripete? Allora, per quanto riguarda i servizi riguardanti l'assistenza, per esempio, della linea telefonica, che chiaramente è un professionista, una linea business può servire per lavoro, giustamente, vi è una procedura d'urgenza, sì, che è attivabile sempre presso il CoreCom regionale di riferimento, e si chiama GU14. GU14. Cioè, esattamente, esattamente. È anche questo un formulario scaricabile da internet sul quale si delinea brevemente il servizio che si è avuto, lo si invia tempestivamente, anche questo via fax, al CoreCom di riferimento, e che fa il CoreCom, che appunto è un braccio dell'autorità garante delle comunicazioni, ordina al gestore di riferimento l'immediato riallaccio, l'immediata riattivazione della linea telefonica, salvi poi chiaramente tutti quelli che sono. È una specie di codice rosso, no, avvocato? Grazie. Sì, è una specie di intervento d'urgenza, sulla linea telefonica. Sì, chissà se Emilio, che nel frattempo forse ha messo giù, ha provato anche questo GU14. E quindi questo potremmo farlo soprattutto se utilizziamo la linea, il telefono per lavoro, e siamo in tanti a farlo. Sì, anche diciamo, qualsiasi linea, se viene interrotta, può essere salvata tra virgolette d'urgenza con il formulario GU14 da inviare sempre al CoreCom regionale di riferimento. E dopo poco, insomma, si ha l'ordine da parte dell'autorità di riattivare la linea. Quindi questo è lo strumento, diciamo, più veloce e anche più facile da utilizzare per un lavoratore o comunque per una persona che non può avere un disservizio. Andiamo a Nicola dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno Nicola, benvenuto. A lei che cosa è successo? Buongiorno, grazie. Sì, io sono scappato via praticamente dall'operatore 3. Sì. Perché continuavano a attivarmi e disattivarmi funzioni. La colpa secondo loro era per il fatto di avere il sistema operativo Android. Alla fine mi sono trovato a pagare un bimestre 255 euro di oggetti attivati a mia insaputa, se non che ho pagato una penale di 450.000 e 450 euro sono scappato via. A gambe levate? Sì, pagando una penale anche per disattivazione anticipata. Guarda caso, gli altri operatori che ho in famiglia hanno questa cosa, non accade. Quindi penso che ci sia un'azione sotto voluta a far qualcosa. Quindi io ripetutamente disattivavo e mi trovavo i messaggi mentre eravamo lì sul divano: avete attivato questo, avete attivato quello. La colpa non può essere di Android, perché Android non fa queste cose. Questo è il mio contributo. L'Android è una persona per bene, Nicola, non fa queste cose. Avvocato Graziussi, com'è possibile? Assolutamente, allora, questa è un'ulteriore condotta che opera molto spesso i gestori, e che è quella di attivare questi servizi premium, che appunto sono anche suonerie, fatturano per esempio la richiesta l'ipotetica richiesta da parte del consumatore di suonerie, oppure che ne so, servizi come news, oppure oroscopi e quant'altro, che poi vengono addebitati tranquillamente in fattura. Ma è chiaro che anche qui l'autorità garante della concorrenza e per il mercato ha già intervenuto proprio quest'inverno a sanzionare i gestori, ma nel caso in cui ci sia una sorta di recidiva, di persistenza nella pratica scoperta da parte del gestore, come in questo caso raccontato dall'utente, sì, dal nostro insomma, ascoltatore, è necessario inviare un ulteriore reclamo proprio all'autorità garante della concorrenza del mercato. Perché che cosa fa? In seconda battuta l'autorità garante, che ha già sanzionato il gestore, può addirittura interrompergli il servizio, quindi interrompergli l'attività nel caso di diciamo recidiva nel comportamento illegittimo. Per quanto riguarda invece la tutela del singolo, come sì, nel caso dell'ascoltatore, anche qui reclamo immediato alla compagnia telefonica, 30 giorni e poi quali si va alla scuola, insomma, e di nuovo al core confiniamo sempre. Grazie all'avvocato Graziussi per essere stata con noi. Torneremo naturalmente ad occuparci di questo tema quando tornerà Deborah. La ringrazio e le auguro una buona giornata. Ringrazio in regia Roberta Frisani, Marco Lombardo e Isotta Scenna. Io, perché Deborah tornerà fra una settimana, torno lunedì. Buon weekend.